La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Impero e aristocrazia. Questa è una versione più breve di un articolo più lungo che c'è sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org. È evidente che ci sono tensioni fortissime nel mondo occidentale che scaturiscono dal tentativo, per molti versi riuscito, di costituire un'aristocrazia multinazionale che si propone di imporsi come soggetto contrattuale con la superpotenza statunitense. In Europa l'iperborghesia annidata nelle multinazionali sta smantellando le forze sindacali e partitiche che si oppongono al neoliberismo, e quest'ultimo significa disoccupazione, povertà, annullamento dello Stato sociale, venuta meno della sanità pubblica, del pensionamento generalizzato, della contrattualizzazione del salario. Tutto questo passa anche necessariamente attraverso la repressione e una cultura securitaria che colpiscono particolarmente i gruppi politici e le forze sociali che più contrastano il neoliberismo. La repressione in tutte le sue articolazioni sottolinea e caratterizza questo momento storico dell'autoespansione del capitale. E la repressione si colloca nello squilibrio fra strutture nazionali statuali e la ricomposizione capitalistica di fondo, che è permeata dallo scontro fra multinazionali e stati per la ricollocazione delle gerarchie capitalistiche, che vedono gli Stati Uniti con il loro alleato inglese all'offensiva, e l'unico interlocutore è l'aristocrazia sovranazionale, l'iperborghesia, che vuole portare in dote al matrimonio la testa del mondo del lavoro. Il programma di classe oggi passa, oltre che su obiettivi e scadenze di lotta, anche su una valutazione degli equilibri, degli scontri, dei rapporti di forza che lo sviluppo globale presenta. Questa attenzione non è secondaria, perché ne scaturisce la possibilità di porre qualche ostacolo alla voracità con cui l'iperborghesia si serve della socialdemocrazia come arma politica. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione che non è più il lavoro in fabbrica a determinare i rapporti sociali, bensì la messa al lavoro della società e quindi lo sfruttamento di tutti coloro che nella società sono attivi. C'è una diretta correlazione tra la sottomissione dei lavoratori all'interno dei singoli paesi occidentali, tra le politiche di ristrutturazione interna e l'imposizione e la transizione nei paesi del terzo mondo da regimi cosiddetti totalitari a regimi cosiddetti democratici. Paradossalmente, ma purtroppo è così, lo scontro è solo nell'ambito del capitale. Si tratta di sapere chi sarà la guida dell'impero, se saranno gli americani in quanto nazione o l'aristocrazia sovranazionale. Pertanto viviamo all'interno di un interregno capitalistico nel quale si svolge una guerra per comprendere chi dovrà governare, quali sono le trasformazioni delle filiere del comando e di ridefinizione delle classi sociali. Dobbiamo nuovamente dire e riconoscere che cosa sia il potere e cosa sia lo sfruttamento, e su questo versante possiamo capire chi è il nostro nemico e chi è il nostro compagno o compagna. Dobbiamo leggere che cosa sono divenuti i concetti di guerra e di pace, di Stato-Nazione, di cittadinanza e diritti, di privato e di pubblico, ed ancora di Nazioni Unite e diritto internazionale. E intorno alla consapevolezza di questi nodi, da come prendiamo posizione all'interno del passaggio storico nel quale viviamo, noi siamo in grado di scegliere amici e compagni e compagne di lotta, noi per i quali la libertà politica, l'amore per l'uguaglianza sociale, la resistenza contro il potere e il rifiuto della povertà camminano insieme. La guerra che ci è imposta investe la vita di tutti e di tutte, e di questo dobbiamo prendere coscienza, passaggio ineludibile per sperare di trasformarla in un movimento di lotta per la liberazione. Non c'è alternativa a questo obiettivo, non è possibile pensare la rivoluzione senza tutti i soggetti che possono contribuire alla sua realizzazione. Dobbiamo rimuovere con forza quella che è una delle caratteristiche del neoliberismo, cioè il concetto che povertà, gerarchia sociale, colonialismo siano una sorta di darwinismo economico-politico che in definitiva non è altro che un ritorno all'Ottocento. Tanto più in una stagione in cui la guerra è divenuta la base stessa della politica, guerra interna ed esterna. Da qui la necessità di riprendere le fila dell'analisi di classe a partire dai temi della teoria, della linea, del programma, in definitiva del progetto della rivoluzione. Non c'è separazione tra economia, mercato mondiale, temi internazionali e rapporti interni agli stati-nazione, e quindi con le stesse regole dei rapporti sociali di cittadinanza e in definitiva di classe. Essere attenti e attente alla lettura non è soltanto un momento teorico e intellettuale, ma è un'esigenza di sopravvivenza per il mondo tutto, visto che gli USA, che spingono per un dominio unilaterale del mondo, sono guidati dalle multinazionali anglo-americane e queste ultime non hanno nessun tipo di remora davanti a niente.